anche se non hai lavoro, vai, ma piacere, vai, prima diventa uomo, prima di venire a cercarmi e di farmi proposte d'amore, per dire, io l'ho preso così, una donna ci deve pensare a queste cose, non può assolutamente ignorarle, dici, ma mi piace, lo voglio bene, eccetera, eccetera, tu sei fuori a gabbo, non esiste stranamente quando una persona parla così. No, se non c'è lavoro lì non può andarsene, capito? Quello è il problema. Non può andarsene, deve subire quello che gli fanno, è normale. Se non può andare via, non c'è lavoro, non c'è casa, non sa dove andare, ha chiesto aiuto i parenti gli hanno chiuso la porta, cosa fai? Ma cosa vuoi che ti dica già? Purtroppo è così. Non tutte le persone hanno una mentalità, diciamo, limpida e soprattutto fluida, perché se uno non riesce a capire certe situazioni vuol dire che gli manca qualche rotellina. Io la penso così, poi cosa vuoi che ti dica? Vabbè, si sa, il delinquente è delinquente, già lo sai, no? come in tante situazioni, ma proprio per quello che la donna deve rimanere sul divano, deve stare molto ma molto attenta, cosa che invece non sono in grado. E già è bello, mi piace, è alto, è muscoloso, non lavora, beh, è fortunato perché non lavora, attenando ai piaceri, che se tu vuoi stare con me devi avere anche la capacità di mantenermi. Io l'ho sempre pensato così, l'uomo deve avere la capacità di mantenere la donna, se no è inutile che ti riavvicini. Ma cosa vogliamo, Roque? Dei bagliacci? E bisogna anche selezionare le persone. Allora io ti racconto una storia. Quando mio padre lavorava aveva una cliente e aveva molta confidenza con questa cliente e gli ha detto: signor, ma mia figlia si è messa con questo qua che beve, cavolo, non riesco a fargli capire il mollare di cose. Lei da mio padre dice che c'ha confidenza, signor, ma io dica di mollarlo questo qui che beve, che cosa. E un giorno mio padre gli ha detto, mio padre, ma io non mi posso mettere in mezzo alle cose sue, e io glielo dico, mi faccia questa cortesia. E mio padre, vabbè, e la torretta gliel'ha detto alla figlia, come mai andava con questo qui che beveva. E gli ha detto, signor, ma credo che voleva sapato, un bel ragazzo, mi piace, sono innamorata. Un giorno è andata alla figlia con il ciuvido e gli ha detto, signor, ma cosa c'è nel buco? Perché c'era nero? E signor, ma mi ha picchiato il ragazzo, mi ha picchiato forte, mi ha dato un pugno in faccia. E mio padre, però l'ha detto che anche lui voleva la sua parte, ecco che l'ha presa. Appunto, è quello, il discorso è quello. Cioè, appunto, io lo dico solamente questo. Quando ti si presenta un uomo davanti a una donna, la donna deve essere capace e intelligente da capire quali sono le intenzioni reali di questa persona. Tu mi dirai, ma al primo impatto lui si presenta bene, si presenta educato, si presenta pulito in tutti i sensi. Sì, vabbè, poi lo frequenti, passano più giorni e prima o poi uno che non è sincero, sei tranquillo che fa un errore, e quell'errore può essere fatale. E allora a questo punto tu devi essere intelligente e dirgli, ascolta Giovanotto, vai che non sia adatto per me. Io la penso così. Ma purtroppo non è così facile, quando uno c'è un sentimento ci passa sopra pensando che magari cambi, capito come sono le donne, pensano che cambi, che magari col tempo metta a testa, e invece no, peggiora sempre di più. Infatti è così, invece oggi, e poi già lo vediamo, tante volte si sposano, escono da chiesa e sono già separati, ma dico io, cazzo, tutto questo era l'amore, magari erano 3, 4, 5, 10 anni insieme, non è possibile, se tutti avessero fatto così, guai, addio famiglia allora, io non dico che non possa succedere, perché capita, ma che tu ti separi dopo 15 giorni, uno ci ha vissuto una vita, 30 anni, 20 anni, 30 anni, 25, 40, 50, 53 anni come me ad esempio, è diverso, ma hai vissuto la vita, ma non 15 di lì, come succede molto spesso, molto ma molto spesso oggi. Io 25 anni più 7 e mezzo di fidanzamento. Appunto, è una vita, è diverso. Poi le controversie possono anche capitare, ci mancherebbe altro, no, non ci sono dubbi. Però hai vissuto già una vita, hai vissuto, no? Non da voi 15 lì, ma dai, no, non è possibile già, non è possibile. Purtroppo io ho un amico lo stesso che praticamente lui doveva dare la tesi di laurea, non si parla di adesso ma di un po' di tempo fa. Si erano sposati, lui doveva dare la tesi di laurea, lei ha avuto un incidente, lui è andato a Roma per fare la tesi, lui ha avuto un incidente, è stata ricoverata in ospedale e c'era questo infermiere che la assisteva sempre, era gentile con lui, alla fine ha mollato il marito e se ne è andato con quell'infermiere. Vuoi immaginare? E tutto il lavoro che aveva per il primo dove è finito? Boh. E c'erano degli anni insieme da fidanzati, minimo 10 anni c'era. E dopo praticamente questa cosa è successa dopo un mese che si erano sposati, e ha avuto l'incidente, il marito era fuori, lei dice che si sentiva trascurata perché aveva avuto l'incidente, non c'era nessuno che gli stava vicino, e questa infermiere l'ha coccolata, l'ha fatta e se l'ha fregata. Quando lui è tornato, laureato tutto, si è trovato un bel paio di colla. Lo so, purtroppo è così. Purtroppo è così. Tante volte, come si dice, tanti matrimoni saltano soprattutto per il comportamento anche della donna, no? Non è detto che la donna sia migliore dell'uomo e nella maniera più assoluta. Perché anche l'uomo può trovare una donna un pochino fuori di testa e allora il discorso non è che cambia molto. Non cambia molto. Purtroppo è così già. Poi un'altra donna a certa età comincia a nascere di gabbo, gli vengono i grilli sulla testa perché vedono che stanno diventando grandi, vogliono fare viaggi, vogliono fare questo, vogliono fare l'altro, e escono di testa. Molte, io ho sentito tanti amici che dice mia moglie non la capisco più, se la devono andare sempre in giro con le amiche, questo, ma non in giro qua, non in giro fuori. Sì, non è mai così, in effetti è così. Vabbè, gli amici si devono frequentare ugualmente, però una volta che uno è legato, che è impegnato con una persona che dovrebbe essere quella l'anima gemella della sua vita, l'amicizia bisogna anche mettere in secondo piano. E tante volte invece ci sono queste persone, tanti uomini, che tengono più agli amici che alla fidanzata o alla moglie, ma no, quello non va bene. E allora cominciano i maltrattamenti in famiglia, arriva il boiacco, arriva lì, arriva il dastro, magari non ha voglia di lavorare, vai lì e in casa mancano i soldi e non puoi andare avanti in maniera decorosa, tutte queste cose, e questi sono tanti motivi che poi fanno fallire il matrimonio. Vabbè, bisogna che ci sia un motivo sempre, ogni volta c'è un motivo, sia da parte di uno che da parte dell'altro, magari si sbaglia e tante volte bisogna fare mia colpa. Comunque, si tira qua. Certo, così. Vediamo se c'è Marco ancora, cosa che stava combinando con questi figli. Marco, ci sei in ascolto? No, ha bruciato tutto. Si è messo a saldare, ha bruciato tutto già. Non diciamo che l'altro giorno stavo pulendo tutto quanto, c'avevo nell'alimentatore, avevo attaccati due apparecchi, però attaccati con quei cosi anilli, che per capicone non c'era l'anello, e praticamente li ho messi nel coso dell'alimentatore, e c'era prima un nastro, un pezzo di nastro adesivo che separava l'uno dall'altro. Ho tolto quello perché dovevo sfilare i due cavi perché devo togliere un apparecchio, cazzo, non ha toccato un uovo lato, c'è una scintilla, ho fatto un tappeto per spegnerlo, meno male non mi ha bruciato nulla. Bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione, purtroppo è così, comunque. Noi questi lavoretti quando si da fare li facciamo, ma alle volte abbiamo un minimo di distrazione e possiamo fare danno, anziché riparare facciamo più danno addirittura. Pazienza, cosa vuoi che ti dica? Vediamo che voglio salutare ancora una volta Natalino. Natalino ancora ci sei? Sì, già sono qua. Ok, vabbè. Il discorso che stiamo facendo non ti va a ginio, non ti piace? Non è che non mi piace, è che ho questi dolori, non riesco manco a parlare, capito? Ti capisco, sì. Ti capisco, Natalino. Purtroppo è così. Purtroppo è così, ma comunque... Già... C'è qualcuno che vigila per noi, più potente di noi, lui vuole bene a tutti, vedrai che la situazione si sistema. Avanti Gianni. E che fatti? Lo so, i dolori sono brutti, ho avuto anche i dolori da gridare di notte, quando prima di operarmi la gamba, mi dice, lo sai da tuo fratello, tu come, te l'avrò detto sicuramente i dolori che gli venivano. Lo so, purtroppo è così, purtroppo. Purtroppo le persone hanno anche questi problemi. Sarebbe bello vivere tranquillo e felice, sano come un pesce, sino alla fine dei nostri giorni. Però purtroppo no, non è così, non è così. Soprattutto arrivata alla certa età, allora cominciano gli acciacchi, primi, secondi, il terzo acciacco e così via. Chiaramente noi non essendo abituati, anche perché non abbiamo avuto mai niente, ci spaventiamo ed è giusto che sia così, perché lo spavento fa parte dell'umanità, non è detto che ci sono persone che non si spaventano, chi l'ha detto? Ballido, perché dice, oh quella metallista, oh non mi fa di nulla a me, non ti fa di nulla, altro che non ti fa niente. Tanto che se te va, non fare lo sbruffone, perché tu sei come gli altri, come tutti. Quando c'è da avere paura, c'è da avere paura. Per se stesso e per tanti altri motivi di qualsiasi genere. Vai già. E vabbè, già si risolverà tranquillamente, non c'è problema. Già si risolverà la calibre, vedrai che poi ti metti più di buco. Certo che lo risolve, solo che i tempi si allungano e la sofferenza continuano, invece dovrebbe essere più celere, più veloce la sanità nel chiamare, fare le persone, ricoverarli e curarle nel modo giusto. Ma purtroppo siamo in questa situazione, cosa vuoi che dica? Non si capisce più niente. Adesso addirittura stanno facendo di tutto, capita, per privatizzare la Secca Bianca. Ma dimmi tu, se un ospedale come quello, un ospedale universitario, tu lo vuoi privatizzare. E per quale motivo? Se non per interesse dei soldi. Se non per quello lo vuoi privatizzare. Vergognoso. Ma... Oi, oi. Ma non mi pare che siano metà, no, quello è policlinico, sì, è vero, no, non è la Secca Bianca, policlinico per dire metà della SL e metà privato, però la Secca Bianca dovrebbe essere una cosa per tutti, quello ospedale lì, già che l'abito disciplinare, non si sa mai che devi andare. Lo so, purtroppo è un labirinto, ma è cambiato molto dopo alcuni anni, io che sono già 5 anni appresso all'ospedale, eccetera, tra un motivo e l'altro, è cambiato tutto, tanto è vero, l'ultima visita che ho fatto l'ho dovuto pagare nonostante che è la mia età e nonostante che sono esente da qualsiasi visita medica, eccetera, ho dovuto pagare 270 euro, 275 o 270, non mi ricordo bene, comunque intorno ai 270, e la visita me l'hanno fatta di notte, me l'hanno fatta alle 9 di notte, che poi alla fine sono diventati di dirsi di notte, purtroppo è così già. Mentre invece io avrei dovuto avere la visita gratis, però hanno cambiato. Io non sono esente, ho pagato per fare le analisi, ho pagato per fare l'astro, per fare tutto. Sto pagando tutto perché non si trovano posti. Telefoni dicono non c'è posto in tutta la Sardegna, non solo di Sassari, in tutta la Sardegna. E infatti non c'è posto in tutta la Sardegna. Purtroppo è così. Per trovare un posto oggi è più facile vincere al Totocalcio che avere un posto prenotato per fare una visita. È più facile, guarda, vincere al Totocalcio. Non è possibile. Purtroppo è così già. E con chi te la vuoi prendere? Noi ci arrabbiamo, però a fin fine siamo costretti a pagare. Ecco qual è il discorso. Sì, ci stanno portando a dire se uno non lo può fare lo si cura più e basta, si lascia morire così, perché se non lo puoi fare cosa fai giù? Tu lo puoi fare, ma ci sono persone che non lo possono fare. Infatti io mi metto anche nei panni di questa gente che purtroppo non hanno i mesi necessari finanziari per potersi curare. Purtroppo è così già, purtroppo. Gente che magari vive con il reddito di cittadinanza, come fa poi a curarsi? Non è possibile già, non è possibile. Dico reddito di cittadinanza per non dire poi magari con una pensione da 400 euro al mese. No, ma la cosa più ridicola è che magari uno che è invalido, che ha necessità di tutto, tutto indistintamente, che è sulla sedia, eccetera, prende appena 280 euro di sanità. Ma dico io, ma secondo voi questi sarebbero sufficienti per una persona malata che ha necessità di tutto, che lui non si può muovere, non si può alzare dalla sedia, e gli dai appena 280 euro di pensione? Vergogna, veramente vergognoso. E loro si prendono 20.000 euro al mese di coso, e mandano le persone delinquenti come quella che hanno candidato in Europa, che adesso si prende 20.000 euro al mese, nonostante che ha 29 condanne in corso, cioè 29 processi in corso, 4 condanne affermate, una tra l'altro anche per tentato omicidio in Ungheria, eccetera, eccetera. Qui che è veramente vergognoso già. E poi anche se uno ce li ha i soldi, se li ha lavorati, non è che deve buttare così, no, a darli. Se rispetta la roba devono dargliela, non c'è proprio. No. Ma anche quelli che fanno le analisi, ti fanno pagare adesso, perché prima erano convenzionati, sono convenzionati tutto, ma siccome dice che non li stanno pagando, e quindi dice noi dobbiamo comprare le reagenti, dobbiamo pagare il personale, come lo paghiamo il personale se non ci pagano? Lo so, infatti ci dovrebbero essere delle leggi giuste, perché anche quelli sono dei lavoratori che hanno necessità di essere pagati, devono incassare anche loro soldi. Però non accetto io tutta questa privatizzazione, non accetto assolutamente tutta questa privatizzazione, perlomeno se c'è uno che è privato, però deve essere sempre convenzionato con la sanità, perché tu non puoi pretendere che una persona venga lì, tu le fai la visita nonostante che sei privato, ma anche capace, posso anche ammettere che sei anche bravo, capace, che sai curare le persone, però non ti devo pagare io, ti deve pagare lo Stato, perché io sono una persona che vive in questo Stato e questo Stato deve mantenermi. Io la penso in questo modo, perlomeno a livello di sanità. Ebbene, nelle altre nazioni non è così, no. Nelle altre nazioni è molto diverso. Sì, ci vuole l'assicurazione per la sanità in certe nazioni, però sono pagati diversamente anche, capito? E diciamo che il cittadino è più tutelato in certe cose. In caso non bastano 1.000 euro per fare la spesa, ma cosa danno? 280 euro non è invalido. Quando non bastano 1.000 euro per fare una spesa, tutto un mese si vogliono più di 1.000 euro. Sì, ma oggi qualsiasi farmaco che vai a contare, a comprare, è una cifra qualsiasi abbastanza consistente. No, non è che oggi anche una semplice pulga, per dire, anche per quello ci vogliono un bel po' di soldi. E cosa vuoi fare? Purtroppo la vita sta cambiando, la politica non si interessa più di tanto, anche se forse non ci sono le possibilità in Italia per poter mantenere la gente a un certo livello, non so come funziona, però ci sono tante cose che potrebbero funzionare meglio, risparmiando ad esempio, tanto per fare una cosa abbastanza lampante, è utile andare a buttare soldi in armi per ammazzare le persone, quando poi quei soldi potrebbero essere impiegati nella sanità e nell'aumento ai pensionati, quelli che prendono pochissimo, eccetera eccetera. Invece tutto permette di dare tutti questi soldi per cosa? Per ammazzare la gente, stesso. Dice no, io do i soldi per difesa, per avere le armi della difesa, ma sì, ma le armi della difesa sono armi che ammazzano lo stesso, perché anche quello se si sta difendendo ti sta ammazzando, per cui non va bene così. Io mi sto sciogliendo, sono la palma della luce, dai, ci sentiamo un altro momento. C'ho tutto sudato, sono i disabili, eppure sto sudando con un negro. Ok, già, d'accordo, non c'è problema, figurati. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao già, stavi bene, ci sentiamo magari domani se coincide e facciamo ancora quattro chiacchiere. Ciao ciao, grazie della chiacchierata, alle prossime, ciao, chiudo anch'io allora, ciao. Ciao ciao, buona serata, dai, buona continuazione. Buon proseguo a tutte e due, alle prossime. Ciao ciao Natali, ciao, stammi bene, dai. Però non ti abbattere, non ti abbattere Natali, vedrai che tutto si risolve. Lo so, capisco qual è la tua situazione e meglio di me non lo può capire nessuno. Comunque non, se ti abbatti è peggio. Ciao Natali, ciao, saluti in casa, ciao. Ciao altrettanto, ciao.